Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Forse vi sarà capitato di andare in stazione a comprare un biglietto in questi primi giorni di agosto, perché le cose sono un po' cambiate. Intanto vi ricordo che stiamo parlando nell'approfondimento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Con noi al telefono c'è Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e un saluto ai radioascoltatori. Infatti dal 1 agosto, vero Gianluca, sono cambiate un po' di cose per quando si acquista e si vidimano i biglietti delle Ferrovie dello Stato. Esatto, è una novità insomma che sicuramente tutti i pendolari o comunque i frequentatori delle stazioni, insomma chi si muove spesso in treno, avranno potuto constatare in prima persona. E in buona sostanza il Trenitalia ha deciso che proprio dal 1 agosto i biglietti non avranno più validità di 2 mesi come era prima, ma avranno validità solo di 24 ore. Cosa significa? Significa che non si potranno, cioè chi acquisterà un biglietto nelle biglietterie o al self-service, non stiamo parlando ovviamente di biglietti online che quelli hanno già delle date prefissate, ma chi appunto acquista un biglietto, quelli classici, poi da timbrare, ecco, sa che potrà utilizzarlo solo nell'arco di queste 24 ore, solo un giorno, ecco. Prima si sa che invece per 2 mesi uno poteva tenere buono questi biglietti, utilizzarli quando voleva, e c'era insomma chi faceva incetta di biglietti per utilizzarli insomma una volta che fosse necessario. Ecco, quindi per chi ha gli abbonamenti ovviamente non cambia nulla, ma proprio per chi magari si comprava il biglietto, la singola corsa, perché sapeva che magari di lì a una settimana sarebbe andato a fare un giro, che ne so, a Vicenza piuttosto che, adesso bisogna appunto comprare il biglietto e consumarlo nelle 24 ore. Questa è la cosa fondamentale. Ecco, quindi giustamente tu hai già introdotto un primo problema, chi appunto non è sicuro di affrontare poi un determinato viaggio eccetera, e potrà trovarsi un po' in difficoltà. Faccio un esempio, tra l'altro personale. Io qualche tempo fa appunto sono dovuto andare a Padova, avevo preso il biglietto per andare a Padova, poi ho trovato fortunatamente un passaggio da un amico, ecco, non era ancora entrata in vigore questo nuovo provvedimento di Trenitalia, quindi insomma ho potuto tenere il biglietto per un'altra occasione, e adesso non sarebbe stato possibile, avrei perso la possibilità, l'opportunità. Certo, è pur vero che comunque sempre nell'ambito di questa giornata c'è la possibilità di cambiare il biglietto stesso, però insomma diciamo che soprattutto per le persone più anziane comincia a diventare una complicazione, soprattutto se uno a fatalità decide di non utilizzarlo a un'ora tarda, mettiamo alle 10, quando magari la biglietteria è chiusa. L'utilizzo del self-service sa che è sempre un po' difficoltoso, quindi sicuramente, Francesco, questo creerà dei problemi, ha già creato dei malumori, ha già creato delle proteste. Ecco, ti chiedo una cosa, Gianluca, se io ho questo biglietto, mi ridanno i soldi indietro o devo comprarne un altro per un'altra devi cambiare il giorno, si possono cambiare il giorno in buona sostanza, esatto. E quindi esatto. Se io non devo più andare proprio in quel posto, a quel punto il biglietto ce l'ho, e appunto posso appunto cambiarlo, ma farmelo rimborsare. Tra l'altro diciamo che c'è anche una cosa da aggiungere, che il biglietto si può cambiare gratuitamente alle macchinette self-service, mentre nei punti vendita, cioè, o nell'agenzia di viaggio dove si può averlo acquistato, c'è una maggiorazione di 50 centesimi. Insomma, diciamo, ci sono dei problemi in più, però vogliamo anche subito fare delle precisazioni, perché adesso non è che vogliamo essere contro ogni novità. Sicuramente, per quanto ci riguarda, avremmo preferito che fosse un po' più lungo il periodo per il quale valeva il biglietto, poteva essere anche 2 giorni invece che uno. Un giorno ci sembra molto poco, e di contro è vero anche che questo è un modo chiaro per sopperire a certe mancanze che sono legate all'assenza sostanzialmente di controlli, all'impossibilità di fare i controlli necessari, anche evidentemente per la mancanza di risorse. Però insomma è utile per combattere l'evasione, perché sappiamo che tanta gente prendeva il biglietto, non lo timbrava e dopo con qualche giustificazione riusciva magari, se passava il controllore, a farla franca, oppure sperava che non passasse e la faceva franca lo stesso. Evidentemente Trenitalia ha riscontrato in questo comportamento un livello di evasione elevato. Quindi, diciamo, noi raccontiamo solo una novità perché è una novità importante, oggettivamente. La vediamo colma di luci e di ombre, ecco. Non vogliamo certo dire che sia una decisione per la quale scenderemo in strada a protestare. Sicuramente si poteva fare meglio, certo. E vabbè, quindi attenzione a questa cosa. Se dovete fare un viaggio, preoccupatevi di acquistare il biglietto nel modo giusto e informatevi anche nel caso non facciate più quel viaggio, insomma, come rientrare in possesso non dei vostri soldi ma di un altro biglietto che magari cederete a qualche amico a questo punto, perché ecco, questa è la soluzione finale. Ecco Francesco, scusa, solo per precisare, che dopo non creiamo magari confusione, ecco, stiamo parlando di biglietti regionali che appunto allo stato attuale valgono 2 mesi, si possono timbrare nell'ambito di 2 mesi e chiaramente, come forse ho detto già all'inizio, da tutto questo, dalla novità, sono esclusi i biglietti, quelli acquistati online, sul sito o sulle applicazioni, perché quelli già riportano con precisione il giorno e la tratta del viaggio. Quindi solo i biglietti regionali, quelli acquistati proprio in loco, in stazione. Perfetto. Con l'Adico e con Gianluca Codognato ci risentiamo tra qualche giorno. Ciao Francesco. Diritti e rovesci. In collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.